non faremo mai. Hai mai pensato a quante città e quanto mondo non conosceremo mai? Hai mai pensato a una vita diversa da oggi? O sei felice così come sei? Io non lo so se questa è la vita che volevi. Io non lo so se ti sta bene così. So che per io non lo so.